Marzia no boca chiave e na tu boca straco. Torna a chiovere, schiove, riro sulla cull'acqua. Mon uscile celeste, mon aria cupa e nera, moro vierne tempeste, mon aria primavera, marzia no boca chiove, e na tu boca stracqua. Uscella freddiusa, aspetta che esce sole. Un goppo turrena infusa, sospira nei viole. Catanica vuoi chiudere. Tienna ma cor mia, marzo tu assai si tu, e sta uscella songhi, marzo no bocca chio.